27 ottobre 1962. Giovanni Ardizzone. Giovanni Ardizzone aveva 21 anni quando venne ucciso in via Mengoni. Era iscritto al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Nell'ambiente studentesco apprese a conoscere e condividere gli ideali del movimento operaio ed arrivò ad essere un attivo militante comunista. Sabato 27 ottobre 1962, in piena crisi dei missili, la Camera del Lavoro di Milano organizzava un grande corteo di protesta contro l'aggressione statunitense a Cuba. Durante la manifestazione, le camionette cariche di poliziotti si gettarono deliberatamente contro la testa del corteo, investendo Giovanni Ardizzone. La reazione della popolazione milanese fu pronta e decisa nel denunciare l'aggressione da parte delle forze dell'ordine e nelle ore seguenti si formarono cortei spontanei di protesta per le strade del centro. Durante questa mobilitazione numerosi furono i feriti e gli arresti. Per l'omicidio di Giovanni non ci sono colpevoli e della sua morte la versione ufficiale parla di un banale incidente.